Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che in previsione della mostra che dal 29 novembre al 7 dicembre si aprirà negli spazi bellissimi del Dams Lab nella piazzetta Pasolini, presenterà 70 opere tra grafica, fumetti, stampi e disegni, il tutto organizzato dal Dams Lab stesso, Radio Città Fujiko, il CRAP e Fumetto Factory di Barcellona e Pozzo di Gotto. All'interno di questa manifestazione ci saranno anche altre iniziative collaterali e in questa trasmissione ne introdurremo due. La prima è la presentazione sabato 3 dicembre a mattina di questa ultima produzione Coconino Press, Jungle Justice, a firma di Alessandro Lisi, che ne ha curato la sceneggiatura, e Alberto Talami, che ne ha curato i disegni. È un racconto che narra appunto della rivolta della vegetazione, della flora, contro l'umano distruttore, una vera e propria guerra, con tanti ufo-robò che si scatenano per debellare la razza umana locusta. Sabato saranno presenti gli stessi due autori e sarà la possibilità di acquistare il libro con tanto di dedica. Ma subito allora sentiamo dopo lo stacchetto musicale l'intervista di Morena Moretti ad Alessandro Lise. Alessandro, è appena uscito un fumetto, il vostro Jungle Justice, il vostro nel senso tuo, Alessandro Lise e Alberto Talami, e qui questo fumetto si consuma l'ultima battaglia tra specie vegetali e quelle che voi chiamate le bestie umane. Come avete immaginato questo fumetto così attuale, peraltro? Fondamentalmente noi abbiamo pensato a cosa sarebbe successo se le piante fossero senzienti, fossero come degli uomini, e quindi si sarebbero in qualche modo vendicate dell'umano, dell'umanità, degli uomini, insomma. Ma come le abbiamo fatte come degli uomini, loro si comportano proprio come degli umani, e quindi per distruggere l'umanità fanno quello che trovano fondamentale, cioè creano delle infrastrutture, cioè delle autostrade di giungla che uniscono le foreste della terra in modo da rendere tutto verde, togliere ciò che c'è di umano all'interno del mondo. Una deantropizzazione violenta. Abbiamo sempre sentito storie di persone che magari hanno quelle case che poi devono essere tolte da di mezzo perché deve passare un'autostrada, e anche la natura fa così, ma invece di mandare polizia Cellerini manda degli enormi robot che si chiamano Fauna Bot, a forma di elefante, di giraffa, di maiale, che vanno a fare il lavoro sporco. E quindi si comincia a intravedere una battaglia tra la natura, attraverso questi Fauna Bot, e l'umano che cerca di difendersi in modi non sempre sufficienti. Sì, esatto. Poi ci sono anche degli umani che proprio non si rendono conto delle guerre, delle bombe, finché non gli capita che gli viene abbattuta appunto la casa. Voi rappresentate anche questo all'inizio del libro. Sì, è uno dei temi su cui ci piaceva sottolineare, perché è un po' quello che sta succedendo. Noi francamente viviamo le nostre vite normalmente, anche se vediamo che questo è stato un anno sorprendentemente caldo, un ottobre caldissimo con il sole, la siccità, eccetera eccetera, viviamo le nostre vite giustamente anche in maniera normale, però bisognerebbe un po' porsi il problema di quello che sta succedendo. I nostri protagonisti umani sono così, magari vincono delle battaglie, pensano di aver vinto la guerra, però in verità il processo di deantropizzazione è inarrestabile. È molto avanzato, sì, infatti. Poi questa natura, come tu l'hai detto, è una natura comunque cattiva, cioè non c'è la natura buona in questo libro, o qualcuno dice non ci sono gli eroi, non ci sono gli antieroi, e c'è anche del cinismo effettivamente, infatti è abbastanza, alla fine è forte come impatto quando si legge, pur essendo un fumetto, no? È divertente, ma anche non lascia spazio a nessun tipo di lacrima. Poi, sveglia. Tu dici che la natura è cattiva, è vero, ma se lo vedi dal punto di vista dell'umano, ecco, certo. Dal punto di vista della natura è tutto molto logico e molto conseguenziale, e noi più che altro ci immedesimavamo più nella natura che nell'umano in quel momento lì. No, per dire che non è che usa dei metodi quelli con i cuoricini, insomma, anche la natura, no, certo. Usa dei metodi, sa, una guerra di fatto proprio, sì. All'umano. Il libro è molto bello anche esteticamente, c'ha queste pagine coloratissime, ci sono i disegni di Alberto, però l'avete costruito insieme, perché si fa fatica ad immaginare che un fumetto del genere possa essere fatto in modo separato. Tu fai i testi, lui fa i disegni, sì. Perché c'è un intreccio molto particolare, anche molto, a volte anche disorientante. Non so, immagino che sia un lavoro anche molto lungo per ottenere un risultato così forte. Noi lavoriamo non in maniera canonica col fumetto. Di solito il fumetto si fa prima la sceneggiatura, sì. Poi i disegni, eccetera, eccetera. Noi da tanto tempo la sceneggiatura è il soggetto della storia, cioè la storia proprio la discutiamo assieme e la facciamo man mano contemporaneamente, nel senso che ci troviamo, ci sentiamo e la discutiamo. Quindi è un processo proprio collaborativo completo. In particolare questo Jungle Justice, siccome io poi sono molto lento a scrivere, Alberto l'ha portato avanti praticamente da solo per una gran parte, mentre io stavo scrivendo un altro libro. E quindi gran parte del lavoro è stata fatta da lui, la creazione del mondo e di una parte della storia, sulla quale io poi mi sono inserito successivamente per scrivere tutti i dialoghi che non c'erano e per rendere quello che lui aveva fatto, che era già abbastanza bello e così come è la parte definitiva, ma era un po' slegato, quindi io sono intervenuto per unire tutto quanto e renderlo più un libro, una cosa unica che avesse una sua coerenza e una sua leggibilità da sola, mentre prima era un po' come dei singoli racconti che non facevano unità. Sì, infatti il libro poi è diviso effettivamente in alcuni quadri e che però comunque sono conseguenziali. Per esempio c'è la giornata di un riconvertitore, per esempio, che quando parte per cominciare questa distruzione, ma ci sono anche dei dialoghi molto divertenti, anche questo dialogo fra i due riconvertitori che sono lì, che sono molto umani poi effettivamente, e che conosciamo perché è capitato a tutti, no? Questo tipo di dialogo. Vita del lavoro, sì. Ci sembrava interessante non far vedere in questa guerra, a far vedere le battaglie, anche se le facciamo vedere, ma insomma non solo la cosa importante, anche far vedere un po' la quotidianità di quello che succede dall'altra parte. Questi riconvertitori sono delle macchine che vanno a biodiesel, tra l'altro, e che arrivano e mangiano le case, i condomini, per renderli poi terreno dove far crescere la foresta. Did you kill Bungalow Bill? in marble, zapped him right between the eyes. Zap! How did you listen? Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. È diviso in cinque capitoli, che sono quelli che ha fatto praticamente Alberto senza dialoghi, che ho poi inserito io. E poi ci sono quattro storielline brevi che abbiamo inserito dopo, e una di queste è quella del riconvertitore, che servivano appunto un po' a dare unità a tutto quanto, un po' ad approfondire degli aspetti delle storie lunghe che rimanevano un po' in sospeso, rimanevano un po' così aperte, troppo aperte. E ci piaceva invece focalizzarci un po' di più su alcuni dettagli, per cui c'è la storia di un giardiniere, c'è la storia appunto dei riconvertitori, c'è la storia dei cattivi, dei veri cattivi di questa storia. Che speculano, vedono sempre. Che speculano, che sono sempre la questione chi è che si salverà da questa cosa qui, non si salverà la natura, non si salverà l'umano, si salverà chi potrà farlo, chi avrà i soldi per farlo fondamentalmente. E quindi queste piccole storie qui le abbiamo inserite apposta per approfondire e dare anche un ritmo un po' di verso a tutta la narrazione, come un contrappunto, ecco, sì. Ti chiedo l'ultima cosa, bisogna che mi parli però un po' dei funghi, perché i funghi sono effettivamente molto divertenti, anche se vengono appena citati, ma è un organismo semplice, ma comunque potente, dipende molto dai funghi, il nostro futuro, sì. No, è una domanda che... magari vi siete posti, non so. Sì, ci siamo posti, stiamo seguendo tanto le ultime ricerche sui funghi, sembra che ci siano dei funghi che riescono, per dire, a mangiare a riconvertire i mozziconi di sigarette, per dire. Sono usciti dei libri molto belli ultimamente, uno di Martin Sheldrake, che è citato all'inizio del libro, che racconta un po' queste, mi viene da dire, creature, perché in fin dei conti sono un mondo a sé, come si dice, non sono animali, minerali, vegetali, sono un mondo a sé dell'ambiente. E sono molto particolari perché hanno tutta una serie di regole e di funzioni che ancora sono tutte da scoprire e da capire. E sono molto affascinanti. Li abbiamo inseriti proprio per questo, perché ci sembra che siano un elemento un po' misterioso, ma anche pieno di sorprese, esattamente. Sì. Il libro è Jungle Justice, e lo consiglio. Tra l'altro l'ho pesato, pesa molto. Avete usato una carta, praticamente pesa quasi mezzo chilo rispetto a un libro simile che ne pesa tre etti. E sì, quindi... perché per i colori serviva una carta che mi facesse esplodere. Sì. C'è un peso specifico in tutti i sensi, sia quello proprio vero, poi c'è il peso specifico del contenuto, che insomma anche quello è importante. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the bright jungle, the lion sleeps tonight. A wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a wet, a wing, a E dopo l'intervista di Morena Moretti ed Alessandro Lise su Jungle Justice, veniamo alla seconda iniziativa collaterale della mostra Antropocene. Non è un vernissage, ma un finissage, perché l'8 dicembre, al lato della chiusura della mostra stessa, sarà possibile per i visitatori dell'esposizione partecipare a una visita guidata nel parco di San Lazzaro, dove anche i dinosauri sono in carne ed ossa. Un percorso davvero interessante con tutti gli abitanti del mondo che fu. Un esempio anche di come scatta l'evoluzione, come ci si può estinguere, a dimostrazione che la natura può far senza anche l'uomo, ma è l'uomo che non può far senza la natura. E per saperne di più sentiamo le parole del paleontologo Federico Fanti, uno dei maggiori ricercatori di fosse del nostro paese, e poi andiamo a parlare di fumetti che parlano di dinosauri. Come hanno affrontato i dinosauri i tanti cambiamenti della Terra? Lo chiediamo a Federico Fanti, geologo e paleontologo. I dinosauri sono vissuti sul pianeta per almeno 180 milioni di anni e un gruppo di dinosauri che si è evoluto direttamente dai dinosauri è ancora vivo e vegeta, sono gli uccelli che conosciamo oggi. Quindi la loro storia è davvero eterna rispetto alla nostra. Ed è strano pensare che è avvenuto una volta un'estinzione e lì si sono giocate le carte. Non è assolutamente così. I dinosauri nella loro storia si sono estinti tantissime volte, non tutti insieme, ma hanno affrontato moltissime estinzioni, moltissimi cambiamenti, moltissimi momenti positivi e moltissimi negativi. Ed è questo che cerchiamo di fare io e i miei colleghi, cioè di vedere proprio come hanno fatto non a estinguersi per colpa di un asteroide, quello è relativamente facile se me lo consentite, ma come hanno fatto a sopravvivere per così tanto. Perché per sopravvivere un intervallo di tempo che è enorme rispetto a tutta quella che è la nostra storia, ad esempio, devono aver capito, in un certo senso, o applicato meglio di noi, dei meccanismi che li hanno portati a sopravvivere. Ed è proprio quello che a noi interessa studiare, come hanno fatto a sopravvivere così a lungo e che cosa oggi sta succedendo che va contro, in un certo senso, queste regole del gioco. Quali dunque le regole del gioco che anche noi dovremmo saper mettere in pratica per salvare il pianeta? Mettiamola così, sono in realtà pochissime, valgono sempre, dall'origine della vita ad oggi. Il motivo per cui avvengono queste cose è il cambiamento. Il cambiamento è la costante del nostro pianeta e come gli organismi reagiscono al cambiamento ne determina il successo. Le opzioni però sono sempre state tre. La prima è estinguersi. Quando il cambiamento è troppo veloce, troppo grande, troppo inaspettato, la natura ci insegna che si estinguono le specie e altre più pronte vanno avanti. La seconda è spostarsi. In natura abbiamo visto che gli animali tendono a mitigare un po' gli effetti del cambiamento spostandosi, cercando in modo temporaneo ovviamente dei luoghi dove si stanno. E anche oggi questo trend lo stiamo vedendo molto chiaramente. Quando mancano le risorse, quando si sta male in un posto, si cerca di spostarsi e andare da altre parti. La soluzione vincente è sempre stato adattarsi, cioè accettare che il cambiamento possa avvenire e cercare di adattarsi in questi termini. Scavare nel passato ci può aiutare a scoprire il futuro del pianeta? Cioè il bello dello studiare il passato è che ogni volta che vedo un cambiamento, grande o piccolo che sia, enorme, una catastrofe come meteorite e quant'altro, ho l'enorme e unico vantaggio di vedere l'evento, il cambiamento, il momento in cui le cose sono cambiate. Ma vedo anche come ci si è arrivati e vedo anche cosa è successo dopo. È questa la grande differenza di studiare il passato. E ripeto, studio il nostro passato, nel nostro pianeta, nei nostri ambienti. Non lo ipotizzo basandomi su un altro pianeta, un modello o quant'altro. Io vedo nei fatti che cosa succede quando avviene un cambiamento. E il modo, secondo me, in cui questo potrebbe aiutarci a capire il futuro è che il numero di cambiamenti possibili non è infinito. E soprattutto quello che vedo nel passato, ripeto, è successo ai nostri antenati, a qualche gruppo di animali che alla fine ha portato noi. E vivendo in un momento storico in cui la velocità è tutto, ma soprattutto la previsione è quella che allerta e tiene tutti incollati al giornale, alle televisioni e quant'altro, questo tipo di modo di lavorare, sia chiaro, propone un'alternativa. Se io invece di prevedere, quindi la sfera di cristallo, guardo quello che è successo negli ultimi 10 anni e cerco di prevedere i prossimi 100, sostituisco questo modo di lavorare con un: l'ultima volta che ho visto tutti questi fattori insieme è andata a finire così. Oggi parliamo di dinosauri che ce l'hanno fatta, un nuovo libro di Leo Ortolani pubblicato per Editori La Terza. Volumotto cartonato di 138 pagine a 15 euro, contiene la nuova fatica comico-scientifica del nostro geologo fumettista preferito. Dopo C'è spazio per tutti, dopo Luna 2029 e le collaborazioni con CNR Edizioni su Comics and Science, ancora una volta Leo torna a utilizzare il suo fantastico umorismo per fare un po' di divulgazione scientifica, ovviamente a modo suo. L'argomento, come potete immaginare, sono ovviamente i dinosauri. 10 capitoli in cui l'autore ci trasporterà dai primordi del pianeta fino alla comparsa dei mammiferi e di quel gran bell'essere vivente evoluto che è l'uomo. Ovviamente, però, la parte centrale di tutto il racconto è sui giganteschi antenati degli uccelli. A farci da cicerone in questa scoperta è ancora una volta il presentatore di Mysterious, che quindi attraverseremo insieme a lui il Mesozoico, il Permiano, il Triassico, il Giurassico e il Cretaceo, scoprendo un sacco di informazioni simpatiche sui dinosauri, niente ovviamente di troppo approfondito, con ovviamente tutto il tipico umorismo di Leo. In ogni caso, a chi è rivolto il libro? Presumo in generale a qualsiasi appassionato dei dinosauri. Non fornisce ovviamente informazioni in più se già le conoscete, e forse per un lettore molto giovane è più complicato cogliere tutte le battute, per cui effettivamente a livello di target è un po' difficile. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Thank you.